Questo è un podcast di Rivista Militare, geopolitica della Transnistria, equilibri e tensioni tra Romania, Moldavia e Russia, di Dario Citati. Dalla Bessarabia alla Repubblica di Moldavia, le radici dell'influenza russa nello spazio romeno. Romania e Repubblica di Moldavia, o Moldova, condividono origini comuni che i rispettivi percorsi storici hanno in parte allontanato. Il territorio della Romania corrisponde a quello della Dacia, l'antico regno sul Danubio conquistato dall'imperatore romano Traiano all'inizio del II secolo d.C. La sintesi tra l'elemento autoctono dacico e la colonizzazione romana è fondante della coscienza nazionale romena, che si è sempre identificata come isola latina circondata da un mare slavo e che proprio alla città di Roma si riferisce nel suo toponimo. La Repubblica di Moldavia, con capitale Chișinău, non va invece confusa con la Moldavia storica, benché si tratti di aree contigue. La prima è uno stato indipendente, la seconda una regione che fa invece parte dello stato romeno. Il territorio dell'attuale Repubblica di Moldavia coincide infatti quasi integralmente con la regione storica denominata Bessarabia, per secoli abitata anch'essa da popolazioni romenofone. Nel 1812 la Bessarabia, allora sotto il dominio turco-ottomano, fu però conquistata dall'impero zarista che ne fece un proprio governatorato, insediando comunità slave e iniziando a diffondere la lingua russa. La regione rimase così esclusa dal processo di unificazione nazionale della Romania, che divenne uno stato indipendente nel 1859 con l'unione tra i principati di Valacchia e Moldavia. Per un breve periodo, dal 1918 al 1940, la Bessarabia fu però unita alla Romania in ciò che per i nazionalisti di Bucarest rappresenta la forma completa dello Stato, la cosiddetta Grande Romania, in romeno Romania Mare, includente anche la Transilvania che il Trattato di Trianon alla fine della Prima Guerra Mondiale riconobbe come parte della patria romena. Con l'invasione dell'URSS nel 1940, la Bessarabia fu trasformata in Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia, RSS. In essa fu inglobato il territorio a est del Dnistro, la Transnistria appunto, abitato da una popolazione in gran parte slava e russofona. Nei decenni a seguire, la russificazione del paese prese corpo attraverso il cosiddetto moldovenismo, politica di promozione di un'entità moldava separata dalla Romania e vicina al mondo slavo-russo in cui proprio la Transnistria giocò un ruolo importante. Oltre a essere la regione più omogeneamente russofona, la Transnistria era anche l'area maggiormente industrializzata, producendo quasi la metà del PIL nazionale e circa il 90% dell'energia elettrica. Nella Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia, il rapporto fra Tiraspol e Chișinău era pertanto costante e obbligato. Esso è rimasto molto stretto anche dopo la fine dell'URSS e la successiva secessione dalla Repubblica di Moldavia, dove oggi la maggioranza della popolazione, circa il 75%, è comunque di madrelingua romena e si considera romena. La minoranza russofona si percepisce invece più affine alla popolazione transnistriana, cioè appunto di madrelingua russa e con un certo grado di simpatia verso Mosca. La questione energetica come detonatore di tensioni etniche e crisi internazionali. Come in epoca sovietica, oggi la Transnistria si approvvigiona di risorse energetiche gratuitamente dalla Russia attraverso una rete di gasdotti che transitano per l'Ucraina. Il gas russo è vitale per garantire la sussistenza della piccola economia transnistriana e dei suoi stabilimenti industriali, nonché per esportare energia verso la stessa Moldavia. In particolare, la centrale di Kusyurgan, che produce elettricità dalla combustione di gas russo, copre circa il 70% del fabbisogno elettrico della Repubblica di Moldavia. Dall'inizio del conflitto russo-ucraino, le forniture di gas russo verso la Transnistria sono sempre state garantite. ma l'Ucraina ha dichiarato che le interromperà dal 1 gennaio 2025, quando scadrà l'accordo attualmente in vigore. Ciò potrebbe generare in Transnistria una crisi economica senza precedenti. Proprio questo rischio ha spinto le autorità di Tiraspol a chiedere l'annessione alla Russia. Dall'altro lato, la Repubblica di Moldavia sta limitando la dipendenza energetica dalla Transnistria e quindi dal gas russo, riavvicinandosi alla Romania. Tra i progetti più importanti di tale collaborazione vanno menzionati la costruzione di una linea di trasmissione a 400 kV tra Sichava, Romania e Balti, Moldavia, l'ampliamento a 300 kV di un'altra centrale elettrica sempre a Balti, la costruzione di un'altra linea tra Vulcanești, Romania e Chișinău. Il gasdotto romeno Iași-Ungheni è stato invece prolungato sino a Chișinău per una lunghezza di circa 150 km, di cui 110 su territorio moldavo. La Transnistria è dunque sempre più stretta tra un'Ucraina che può interrompere le forniture di gas russo e una Moldavia sulla strada del riavvicinamento alla Romania. Un'annessione alla Russia che risolva il problema energetico è resa problematica dalla mancanza di un continuum territoriale. Senza significative conquiste territoriali della Russia in direzione di Odessa, è dunque più probabile che la sicurezza energetica transnistriana venga posta come condizione in sede negoziale. Nel breve periodo, la Transnistria potrebbe essere spinta a reintegrarsi con la Moldavia. Le trattative proseguono sotto traccia nonostante i proclami pro-russi, magari in cambio di garanzie su forniture di gas, autonomia amministrativa e uso della lingua russa. Sul lungo periodo, tuttavia, tale soluzione potrebbe risultare precaria. Il riavvicinamento tra Romania e Moldavia ha infatti ravvivato l'attenzione su un progetto politico mai sopito. L'unione dei due paesi, Unirea, che ricorda l'incorporazione dell'allora Bessarabia all'interno della Grande Romania poco più di un secolo fa. Esiste infatti una forma di irredentismo romeno che vuole riportare la Repubblica di Moldavia a ciò che essa fu nel suo passato presovietico, ben espresso da slogan quali Basarabia Pamant Romanesc, Bessarabia terra romena, oppure Basarabia e Romania, la Bessarabia e Romania. Questo progetto, per ora uno stadio puramente teorico, non è privo di controindicazioni. La Repubblica di Moldavia resta infatti uno dei paesi più poveri d'Europa. Se i suoi 2,5 milioni di abitanti divenissero cittadini romeni, ciò si ripercuoterebbe sul mercato del lavoro interno e sul sistema di welfare di Bucarest. L'idea di unire Romania e Moldavia, pur basata su un'indubbia legittimità storico-culturale, almeno nelle condizioni date, rischierebbe paradossalmente di innescare dissidi di natura socio-economica tra romeni e moldavi, oltre che di polarizzare la società tra romenofoni e russofoni. Ciò potrebbe compromettere una pacificazione tra Transnistria e Moldavia e creare terreno fertile per sobillare le zone filorusse della Moldavia stessa, soprattutto la Gagauzia, regione meridionale abitata da una popolazione di etnia turca e confessione ortodossa, dove è molto forte il sentimento pro-Russia. Un primo test importante sul futuro dell'area sarà la scelta dell'Ucraina sul transito di gas russo in Transnistria tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. È possibile che alla fine si trovi una soluzione di compromesso, poiché è nell'interesse di tutti gli attori coinvolti un mantenimento dello status quo. Qualora ciò non avvenisse, quella forma di instabilità controllata che sinora ha retto gli equilibri tra Romania, Moldavia e Russia potrebbe però volgere al termine. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.